Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tal'aria ciattica blues, oggi dedichiamo la terza puntata al 1959. Sono passati quanti? 60 anni? Esattamente 60 anni da quell'anno che poi è l'anno d'oro del jazz moderno. Già avevamo dedicato tempo fa un'altra puntata al 1959, insomma un anno che ha segnato la musica e il jazz in particolare. E visto che siamo a fine 2019, quasi 2020, vi ricordiamo che è disponibile la nuova Scarceranda, bellissima come ogni anno, col quadernino. E a questo proposito salutiamo Marco, che è venuto a ritirarla poco prima dell'inizio della trasmissione, e allora grazie, grazie, grazie. Noi siamo agli sgoccioli, questa è la penultima puntata dell'anno in corso. Ma potrete sempre ascoltarvi i podcast se vi manchiamo proprio tanto. Vi ricordo che sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info trovate i vari podcast della nostra trasmissione Attica Blues, come di tante altre trasmissioni. Allora cominciamo con la selezione. Sì, nelle scorse puntate abbiamo visto appunto come questo 1959 sia stato rivoluzionario per l'uscita di tanti dischi che hanno fatto da manifesto per i tanti stili del jazz moderno. Ricordiamo il Kind of Blue, il disco manifesto del jazz modale, e ancora Giant Steps, e il Free Jazz con Ornette Coleman, ma anche il Cool con Dave Brubeck. Ma come vedremo anche oggi, sono tantissimi i dischi usciti in questo anno, e iniziamo con un disco uscito il 24 gennaio del 1959, protagonista è Art Blakey con i suoi Jazz Messenger. Questa fu la prima registrazione di Blakey con la Blue Note in oltre un anno, e questo a causa della convinzione di Alfred Lion che Art Blakey fosse stato sovraesposto. Però insomma questo è un disco meraviglioso con una line-up che vede Lee Morgan alla tromba, Benny Golson al sax tenore, Bobby Timmons che è anche l'autore di questo brano che dà il titolo all'album, Jamie Meret al contrabbasso, Art Blakey alla batteria. Questa è Morning. Thank you. come ricorderà l'autore di questo brano, Bobby Timmons, in un'intervista al Down Beat nel 2000, una sera durante la mia prima settimana con Art Blakey al Caffè Bohemia, è arrivato Thelonious Monk e quando sono uscito dal palco mi ha detto: suoni troppo perfetto, e sapevo che non era un complimento. Così Monk mi guardò per 15 o 20 secondi attraverso gli occhiali da sole con le aste in bambù e mi disse: devi fare errori per scoprire le cose nuove. Eccolo qua, Bobby Timmons al piano, che poi disse che ci pensò alle frasi di Monk, e così la sera successiva entrai e suonai come un uomo che si congedava dai suoi sensi, cercando di sfuggire ai modelli logori che avevo modellato per me stesso, come la matematica, e la musica è tutt'altro che quella. Bobby Timmons. Passiamo all'incontro da due sassofonisti. Sì, lui è Jerry Mulligan al sax baritono e Johnny Hodges al sax contralto. Johnny Hodges, che uscirà anche con un album bellissimo in coppia con Duke Ellington, che abbiamo ascoltato nelle puntate precedenti. E allora Jerry Mulligan meets Johnny Hodges e ci ascoltiamo la traccia d'apertura di questa registrazione effettuata a Los Angeles il 17 novembre 1959. Questa è Sunny. Rimaniamo nel cool jazz Nell'hard bop, in realtà, che rimaniamo con Donald Byrd, perché siamo al 30 marzo e c'è l'uscita del suo debutto per la Blue Note, quindi ritorniamo negli studi di Rudy Van Gelder. L'album si... Rudy Van Gelder, protagonista di questo 1959, assoluto. Assoluto, questi sono gli anni d'oro, soprattutto anche per la Blue Note, quindi ovviamente Rudy Van Gelder era richiestissimo nell'ufficio, no? nel salotto dei suoi genitori. E allora questo off the Race vede appunto Donald Byrd alla tromba, Jackie McLean al sax contralto, Pepper Adams al sax baritono, quindi insomma una lineup molto molto ricca, e poi Wynton Kelly, Sam Jones, Art Taylor, la ritmica. Ci ascoltiamo la traccia d'apertura, Love, Come Back to Me. adesso ci ascoltiamo un paio di pianisti, pianoforte strumento fondamentale perché comprende più armonie, quindi diciamo che amalgama il suono. Eh sì, partiamo dal 5 aprile quando è nei negozi di dischi il secondo album a firma di Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans. Qui ancora non è col suo trio storico, poi quello che negli anni 60 rivoluzionerà il trio nel pianoforte appunto con Scott LaFaro e Paul Motion. Qui invece accompagnato da Sam Jones al contrabbasso e Phil Joe Jones alla batteria. Ci ascoltiamo una loro rivisitazione di un brano celeberrimo di Cole Porter, Night and Day. Allora vi ricordo che anche quest'anno, il 31 dicembre dalle ore 10, ci sarà il presidio al carcere di Rebibbia. Liberiamoci dal carcere e dalla società che ne ha bisogno, dalle ore 10, appuntamento in via Maietti, angolo via Longo. Guerre, sfruttamento, esclusione, non è giustizia e violenza dello Stato. E il 12-12 di quel lontano 1969, sono passati 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, ufficialmente 17 i morti, ma in realtà furono almeno 18, considerando Pinelli, l'anarchico defenestrato. Comincia la strategia della tensione e cominciano le persecuzioni nei confronti degli anarchici e non solo. Adesso passiamo a un altro splendido pianista, parliamo di John Lewis, già colonna insieme a Mick Jackson, di quel modern jazz quartet che era un po' da raccordo, faceva da raccordo tra la musica classica e il jazz, però era anche autore di ottimi album da solista, come questo Improvise, Meditation and Excursionist, in cui il John Lewis è in nuovo in trio. E ci ascoltiamo una traccia che porta la sua firma, questa è Dilemmas da Luba. E adesso passiamo a un grande organista, parliamo di Jimmy Smith, lui che ha portato alla ribalta poi l'organo Hammond, che sarà molto in voga nella musica degli anni 60 e 70, la musica più psichedelica. E allora, uno su tutto ricordiamo i Doors. Assolutamente sì, e lui nel 1959 uscirà con un disco meraviglioso, Home Cooking, in compagnia di Kenny Barrell alla chitarra e Donald Bailey alla batteria. Ci ascoltiamo un rifacimento di un brano famosissimo di Ray Charles, I Got Woman. Questa la dedichiamo a Francesca, che ci ascolta dal suo ufficio con le sue cuffiette. Allora questa è tutta per te, la rimettiamo da capo. Ray Charles è l'autore del brano, lui è Jimmy Smith. Thank you. il 1959 vedrà anche l'esordio discografico da leader di un personaggio chiamato Wayne Shorter. Wayne Shorter che poi diventerà una colonna anche del quintetto, forse il quintetto più bello di Miles Davis insieme a Herbie Hancock, Ron Carter e anche poi dei Jazz Messengers di Art Blakey. Ma come detto c'è anche questo Introducing Wayne Shorter, il primo disco da leader di Wayne Shorter, accompagnato da Lee Morgan, un altro splendido trombettista, Paul Chambers al contrabbasso, ancora Wynton Kelly al piano, Jimmy Cobb alla batteria. Noi ci ascoltiamo Down in Death. Allora, diciamolo che a Capodanno del 1959 alcuni dei grandi si trovavano a casa di Pannonica. Sì, sì, una grande festa, questo ce lo racconta Thelonious Monk nella sua autobiografia. E quindi sì, erano tutti invitati a casa della baronessa Pannonica e così arriva la mezzanotte. Monk si siede al piano e alla festa sono presenti anche Donald Byrd e Hank Mobley. E il primo estrae alla custodia la sua tromba, il secondo il suo sassofono tenore, così si avvicinano al pianista e si mettono a suonare con lui il brano che Monk, di Monk che era giusto suonare a quell'ora, Round About Midnight. E allora diciamo che nel 1959 esce anche altra musica, tanta altra musica. Abbiamo scelto Ray Charles per chiudere questa puntata. Sì, perché Ray Charles il 18 febbraio ha registrato il suo primo singolo top 10, What I Said, una canzone innovativa di 5 minuti che ha dovuto essere divisa in due parti per adattarsi a un 45 giri. E questo era uno tra i primi singoli a usare questa formula, parte 1 e parte 2, che poi sarebbe diventato un punto fermo della musica funk. smell. You don't do right, don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now. Con l'R&B all'Atlantic di Ray Charles, noi vi salutiamo 16:57 e anzi quasi 58, e nel salutarvi ricordiamo anche le nostre pagine social. Attica Blues la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram, e vi ricordiamo anche la nostra ricca playlist di musica nera su Spotify. In tutti i casi basta cercare Attica Blues. When you see me in misery, come on baby, see about me now. Allora vi ricordiamo pure che giovedì prossimo per Attica Blues sarà l'ultima puntata dell'anno. Abbiamo deciso di dedicarla agli Spirituals. E allora, se vi state sintonizzando solo adesso, vi ricordo che troverete il podcast di questa come delle altre puntate di Attica Blues sul meraviglioso sito della radio www.andorossa.info. Allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento giovedì prossimo alle ore 16, ma rimanete sintonizzati perché adesso c'è la Schiena del Soul.